Consiglio europeo, veti e voti, Brexit, l'ultima cena, forse amara. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. So Boris is beetling across to Brussels to have a face-to-face Brexit chat over dinner with Ursula von der Leyen. Boris Johnson and Ursula von der Leyen forced to admit the conditions for a deal are simply not there. I'm not going to give you a question. You are fake news. I hear a sound of victory. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro. In regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, il numero per sms, whatsapp, domande e commenti. Siamo anche sui social, cercateci. Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24. E su Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Domani e dopodomani un Consiglio europeo con un tavolo colmo di dossier, le sanzioni alla Turchia, il Next Generation EU, il veti di Ungheria e Polonia, come agire di fronte alla minaccia del terrorismo, la questione Brexit, c'è tanta economia, attenzione, ma anche tanta politica, in sostanza potremmo assistere a un riposizionamento vero e proprio della stessa Unione europea. Pensate semplicemente al capitolo sanzioni contro la Turchia, sarebbe una presa di posizione sicuramente dirimente anche per il futuro. Sapete che Ankara ha chiesto che si riaprano i negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Pensate anche alle misure, non sappiamo quali saranno approvate, contro il terrorismo. Pensate ai veti di Ungheria e Polonia, anche se nel corso della puntata andremo tra le pieghe di quello che sta accadendo tra i corridoi polacchi e quelli belgi. E poi stasera c'è la cena incontro tra Boris Johnson e Ursula von der Leyen per un ultimo disperato tentativo di avere un accordo su Brexit. Cena che potrebbe essere amarissima, eh? Scherzavamo prima in redazione, forse Boris Johnson o la Ursula von der Leyen potrebbero dire andiamo a cena, sì, ma tanto non ho fame. Ma anche lì si vedrà naturalmente la postura europea. Di questo parliamo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. 349-238-6666 mentre noi sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci riporta ancora una volta nella regione a nord dell'Etiopia, il Tigray, perché il governo di Addis Abeba ha ammesso che le truppe federali hanno aperto il fuoco contro una delegazione delle Nazioni Unite proprio nella regione. Sono stati arrestati poi 4 funzionari. Secondo la versione fornita dal governo centrale, la squadra dell'ONU ha tentato di raggiungere un'area dove non avrebbero dovuto andare, sto leggendo, tra virgolette, dopo aver forzato diversi blocchi. Il portavoce dell'unità di crisi del governo per il Tigray, Redwan Hussein, ha specificato che il governo ha dato il via libera ai convogli umanitari nella regione, ma non in maniera illimitata, tanto che per esempio, se andate sui social, ci sono gridi d'allarme da parte del Comitato Internazionale di Croce Rossa, proprio che lamenta l'assenza di libertà di movimento per portare aiuti e soccorsi alle tante popolazioni vittime di questo conflitto. È chiaro che aver aperto il fuoco su un convoglio delle Nazioni Unite è questione gravissima. Poi Addis Abeba ha rilasciato i 4 funzionari dell'ONU, ONU che per il momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Evidentemente stanno studiando una qualche forma di dichiarazione, appunto, che sarà scritta in punta di penna. Ricordiamo che è dall'inizio di queste ostilità tra Addis Abeba e il TPFL che rifornimenti di cibo, carburante, acqua pulita, contanti e altri beni essenziali sono sostanzialmente bloccati proprio al confine della regione del Tigray. Tigray che è occupato da 6 milioni di abitanti, un gran numero, alcune decine di migliaia sono scappati in Sudan e il Sudan si sta attrezzando per accoglierli nei campi profughi. Abiy Ahmed, lo ricordiamo, un anno fa era stato insignito per il premio Nobel per la pace, ha dichiarato la vittoria nel Tigray lo scorso 28 novembre dopo che l'esercito aveva conquistato la capitale della regione Mekelle, però elementi del TPLF hanno continuato a combattere attorno alla capitale stessa e la sensazione è che dovranno trascorrere parecchi giorni prima di scrivere la parola fine a questa incredibile, drammatica pagina della storia etiope. E poi in Libia, dove il braccio di ferro tra le varie anime libiche, più o meno risolto tra la Libia e l'Italia e tra la Libia e l'Unione Europea, si arricchisce di un nuovo capitolo, che è sostanzialmente quello marittimo. Un mercantile di proprietà di un armatore turco, era diretto al porto di Misurata, è stato fermato domenica dalle forze del generale Khalifa Haftar al largo del porto di Derna. Il cargo, che trasportava ufficialmente medicinali, è stato sequestrato e i 17 membri dell'equipaggio, tra cui 9 turchi, sono ora detenuti. Lo ha annunciato il portavoce dell'uomo forte della Cirenaica, Ahmed al-Mismari, secondo cui la nave, che si chiama Mebruka, battente bandiera giamaicana, sarebbe entrata in un'area proibita e non avrebbe risposto agli avvertimenti della marina di Haftar, violando quindi le procedure di Bengasi. Il mercantile, ha aggiunto il governo di Haftar, è ora sottoposto a indagini e ispezioni. A bordo non sono state trovate armi. Secondo fonti dell'agenzia statale turca Anadolu, i marinai sono in buone condizioni. In precedenza, sostengono le stesse fonti, altre navi in corso in violazioni analoghe erano state sanzionate ma non sequestrate. Immediata la reazione di Ankara, che ha ammonito l'azione dichiarando: ricordiamo ancora una volta che se gli interessi turchi in Libia vengono presi di mira ci saranno gravi conseguenze e gli autori di questi attacchi saranno considerati obiettivi legittimi. E poi negli Stati Uniti, perché Joe Biden si sta dando un grande affare per terminare la squadra di governo. Infatti martedì il presidente eletto ha annunciato alla carica di segretario alla difesa il 67enne generale in pensione Lloyd Austin. Austin è il primo afroamericano che diventerà così il capo del Pentagono, una scelta in linea con la promessa di Joe Biden di dare maggiore specchio e risalto e visibilità alle diverse anime degli Stati Uniti d'America, in netta contrapposizione invece con le scelte del presidente in carica Donald Trump. Sempre martedì Joe Biden ha presentato anche gli specialisti che andranno a comporre la task force anti-Covid. A capo della squadra, anche qui un'altra sorpresa, Xavier Becerra, già in lizza per diventare segretario alla salute, sarebbe il primo latinoamericano che andrà a servire questa carica. Nel suo discorso Biden ha garantito la somministrazione di 100 milioni di vaccini durante i primi 100 giorni alla Casa Bianca, però ha fatto un invito, ha chiesto agli americani per almeno 100 giorni di indossare la mascherina, invito assolutamente non scontato visto l'assenza di invito in questo senso da parte del presidente attuale Donald Trump. Biden ha precisato anche, evidentemente qua cerca di ingraziarsi anche l'altro pezzo di America che non ha votato per lui, non è un gesto politico ma un gesto patriottico, cioè sostanza badiamo alla nostra salute e a quella degli altri per uscire da questo periodo. E poi c'è un altro dei nomi che è campeggiato in tanti network, in tanti titoli e sei colonne dei giornali statunitensi, quello di Anthony Fauci, che ha accettato l'invito di Biden a rimanere a capo dell'Istituto Nazionale delle Allergie e Malattie Infettive e diventerà capo consulente medico di Biden stesso. Nagorno-Karabakh, si è svolta tra il 5 e l'8 dicembre la visita in Azerbaijan di una delegazione congiunta di Senato e Camera dei Deputati, sto parlando del Parlamento italiano, guidato dal vicepresidente della Camera Ettore Rosato, composta da parlamentari delle principali forze politiche. La delegazione è la prima delegazione europea che si reca in Azerbaijan dopo il conflitto in Nagorno-Karabakh. Sono stati anche ricevuti dal presidente azero Aliyev. Al centro dei colloqui la fine delle ostilità e la fitta agenda di collaborazione economica e commerciale tra Italia e Azerbaijan. Abbiamo più volte ribadito come quello stato sia così importante anche per l'economia non soltanto italiana ma dell'Unione Europea. Alla visita della delegazione italiana farà seguito quella del sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano, che è già in missione in Caucaso, da alcuni giorni, e dopo gli incontri tenuti a Yerevan nelle prossime ore è atteso a Baku. Naturalmente se vi saranno esiti importanti ve ne daremo conto. Infine l'ultimo dossier che campeggia qui sulla scrivania in redazione nel suo luogo lontano riguarda l'Egitto e si intitola Niente libertà ancora. Perché? Perché domenica è stata rinnovata la custodia cautelare, lo avete sentito dal GR, di altri 45 giorni per Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna che fu arrestato al Cairo il 7 febbraio scorso mentre tornava a casa per un periodo di riposo. A darne notizia su Twitter l'APR, l'ONG egiziana per i diritti umani con cui Patrick ha collaborato, Zak è apparso in aula, è provato, si è dichiarato innocente, ha chiesto al giudice di verificare l'autenticità di quei post su Facebook sulla base delle quali, ricorderete, è stato accusato di propaganda sovversiva. Quello stesso giorno la stessa corte ha disposto il congelamento dei beni di 3 dirigenti dell'ONG che erano stati liberati giovedì scorso dopo una forte mobilitazione internazionale. E poi, sempre parlando di Egitto, si è conclusa una 3 giorni di Abdel Fattah al-Sisi a Parigi. dove ha incontrato evidentemente Emmanuel Macron. All'ordine del giorno il rafforzamento della cooperazione bilaterale di fronte alle crisi in Medio Oriente e anche nel Mediterraneo, in cui l'Egitto gioca un ruolo importante non soltanto dal punto di vista della sicurezza, attenzione, ma anche dal punto di vista energetico. Macron ha dichiarato che una società inclusiva è più protettiva contro il terrorismo rispetto a quella che attua la repressione. Ha escluso però di voler condizionare la vendita di armi francesi all'Egitto al rispetto dei diritti umani, e questo è un messaggio che forse a qualcuno riecheggerà un po' familiare. Questi sono i nostri dossier internazionali, sono fatti, spunti, notizie, aggiornamenti magari di vecchi dossier che diventeranno le prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Adesso però andiamo dritti dritti al cuore della puntata di oggi. Is entirely right that a good deal is still there to be done, and I look forward to discussing. Ci sono buone possibilità che si possa ancora arrivare a un buon accordo. Ne parlerò con la presidente von der Leyen stanotte. Ma vi devo comunicare che i nostri amici europei continuano a dire che se un domani dovessero approvare una legge che qui non vogliamo seguire, allora sarebbero in diritto di punirci o di sanzionarci. Inoltre, se accettassimo le loro condizioni, la Gran Bretagna sarebbe l'unico paese nel mondo a non avere il controllo delle proprie acque di pesca. E credo che nessun primo ministro di qualsiasi paese dovrebbe accettare una cosa simile. E così Boris Johnson e Ursula von der Leyen tentano in extremis un accordo, ovviamente un incontro preliminare prima del Consiglio europeo che si terrà domani e dopodomani. Tra i vari dossier evidentemente c'è anche quello di Brexit, che non è assolutamente residuale, questo è evidente. Ma come vi dicevo a inizio puntata, ci sono tanti dossier sul tavolo. Innanzitutto il Next Generation EU, quei veti incrociati di Polonia e Ungheria, le sanzioni alla Turchia, la lotta contro il terrorismo, insomma saranno una o due giorni tutti europei importantissimi anche per ridefinire la postura dell'Unione Europea in tanti temi, in tanti dossier di politica internazionale. Buongiorno e ben ritrovato Nessun Luogo Lontano a Jacopo Barigazzi, senior EU reporter a politico.eu. Jacopo, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora, secondo alcuni analisti, l'abbiamo detto tante volte in verità, però domani e dopodomani potrebbero essere davvero la prova del 9 per questa Europa, nel senso che se si scioglie il dossier Brexit, se si scioglie anche quello del Next Generation EU e quel gamba tesa di Ungheria e Polonia, l'Europa ne uscirà certamente più forte. Se si dovranno trovare altre strade, l'accordo per esempio a 25 eccetera, sicuramente è un'Europa molto molto più debole. Tu come la vedi questa due giorni, soprattutto su cosa scommetteresti? Ma anzitutto sono due problemi molto diversi, nel senso c'è oggi un ottimismo maggiore sulla possibilità di risolvere l'MFS, mentre invece su Brexit è tutto ancora molto opaco. Quindi le due cose sembrano essere indirizzate su due strade diverse, però anche mentre parliamo sono in corso degli incontri, quindi è difficile predire. Però appunto su MFS oggi c'è un clima diverso, ovviamente come sempre prima di un Consiglio europeo c'è molto dramma, e il dramma serve anche a portare a casa i risultati, no? Perché tu drammatizzi e per mettere pressione. Però appunto mentre Brexit è complicato, e fra l'altro Brexit non è formalmente, nel senso quello che dovrebbe si capirà per le prossime ore se sarà così, su Brexit non è neanche una vera e propria discussione, ma la von der Leyen, la Presidente della Commissione, che informerà i leader sullo stato delle cose. Mentre invece appunto sul recovery fund e sul resto, queste sono ore decisive, perché potremmo appunto, sembra che dovremmo riuscire con questa dichiarazione di cui si parla già da tanto tempo a risolvere le cose così. Tieni conto che questo è l'ultimo summit della presidenza tedesca, quindi l'ultimo summit di Angela Merkel e del paese più importante d'Europa, più grande d'Europa, e fino adesso su tutti i dossier principali c'è stato pressoché nessun progresso o quasi niente. Su migrazione pressoché niente, sull'allargamento i tedeschi volevano almeno lanciare la conferenza intergovernativa. Intergovernamentale, scusate, con la Nord Macedonia prima della fine dell'anno, neanche quello. E la Bulgaria, peraltro, ha appena posto il veto, si è messa di fronte, esatto. Di mezzo. Quindi, insomma, c'è anche molto in ballo, perché qua stiamo parlando appunto del paese più grande d'Europa, che rischia, più importante, che rischia di portare a casa poco o niente. Per cui almeno l'MFF, se almeno c'è l'accordo sul budget, ecco, sarebbe già un risultato molto grosso. Nessuno accusa i tedeschi di questa mancanza di risultati. È semplicemente che andiamo da una crisi all'altra, e in più c'è il Covid. Tu ti ricorderai la battuta che si faceva spesso: no, la Germania è troppo grande per l'Europa, ma troppo piccola per il mondo. Ora sembra che il mondo sia diventato troppo grande. E anche l'Europa per la Germania. Forse mi sa che la linea con Jacopo Barigazzi non ci ha soccorso. Anche qua si tratta di drammatizzazione, evidentemente ci ha dato una mano la fine penna di Jacopo Barigazzi, senior EU reporter a politico.eu. Eccolo qua, ce l'abbiamo di nuovo, Jacopo. Stavo cercando di spiegare la drammatizzazione anche di questo collegamento. Evidentemente stai facendo anche tu un teasing disperatissimo. Sono ore concitate anche per voi cronisti. Evidentemente ci stavi lasciando con un po' di acquolini in bocca, come dire. No, però hai ragione, stai dicendo sostanzialmente una cosa: che questi ultimi mesi, evidentemente a super trazione tedesca, rischiano di consegnare un bilancio alla Merkel che non è esattamente positivo. Questo può essere anche un problema non soltanto europeo, ma anche per i tedeschi stessi. Sì, appunto, sembra che sia diventato un mondo e un'Europa troppo complicata anche per il paese più grande d'Europa. Sono dinamiche che vanno al di là della Germania. Appunto, il Covid sicuramente non ha reso più facile raggiungere accordi. Però, insomma, c'è anche tutta una instabilità regionale, la Turchia, eccetera. Insomma, è un mondo che è diventato molto più complicato anche per i potenti mezzi dei tedeschi. E su questo non c'è dubbio, direi di lasciarci, Jacopo Barigazzi, se sei d'accordo con un hashtag, uno slogan che è complessità, e staremo a vedere. Se a partire dalla cena di questa sera, che rischia francamente di far ingoiare alla von der Leyen qualche boccone amaro, e poi domani partono questi due giorni di Consiglio Europeo, si abbraccerà la complessità e si troveranno delle soluzioni. Grazie mille, Jacopo Barigazzi, di politico.eu. Grazie Jacopo, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata. Un po' di messaggi al 349-238-6666. C'è qualcuno che torna indietro alla questione ONU in Etiopia, evidentemente toccato anche dal quel fuoco sul convoglio ONU, il fermo dei quattro funzionari. Scrive: l'ONU non dovrebbe essere un'organizzazione che si frappone tra guerreggianti da quattro soldi, si è ridotto a spegnere incendi con un bicchiere d'acqua. Considerando il bilancio delle Nazioni Unite, mi sembra un ruolo dove abbiamo tante inutili e costosissime poltrone. Che l'ONU sia, come dire, un gigante, non c'è dubbio. Che ci siano tantissime poltrone, non vi è altrettanto dubbio. È altrettanto vero che così andiamo a smantellare l'unica vera grande istituzione sovranazionale, che in contesti come quelli evidentemente cerca di fare quello che può. Lì c'è anche un problema, attenzione, di sovranità nazionale. Parlo di quella etiope che si scontra con le convenzioni dei diritti umani e la possibilità di avere accesso anche i soccorritori in zone dove invece Abiy Ahmed assolutamente non ha voglia. Poi ci sono un po' di messaggi, sempre al 349-238-6666, che riguardano il prossimo Consiglio europeo. Tra pochissimo, naturalmente, ve ne darò conto. Però nelle prossime ore quello che avverrà sarà l'incontro a cena, quindi un incontro sostanzialmente informale. Ci abbiamo scherzato un po' sull'inizio di questa trasmissione tra Boris Johnson e Ursula von der Leyen. Sapete che sul campo, sul tappeto, o meglio sul tavolo, ecco, mettiamola così, c'è il fatto di avere una Brexit con accordo o senza accordo. E sono ore naturalmente concitate. Avete sentito la frase iniziale di Boris Johnson, dove faceva riferimento a quello che è l'accordo sulla pesca, sulle acque, ma non è soltanto quello, evidentemente. Una delle cose che traspaiono da un po' di indiscrezioni c'è il fatto che l'Irlanda del Nord potrebbe rimanere dentro il mercato unico europeo, e questo naturalmente eviterebbe tutte quelle quegli spauracchi, quei fantasmi che abbiamo raccontato in passato, anche qui a Nessun Luogo è Lontano, con quel confine rigido, super duro, tra le sei contee del nord e la Repubblica d'Irlanda, con quei fantasmi, parlo di ira, parlo di possibili fratture anche molto violente che potrebbero riemergere. C'è qualcuno che stigmatizza al 349-238-6666 quella che in Europa ha indubbia attrazione tedesca, insomma, utilizzando gli epiteti francamente poco accettabili. Secondo me sarebbe, e questo è un altro ascoltatore che scrive da Fiumicino, secondo me sarebbe cosa intelligente se il no deal eventuale fosse rinviato dopo l'insediamento di Biden, potrebbe svolgere un ruolo di mediazione considerando i rapporti tra Stati Uniti e Gran Bretagna. E questa è un'osservazione molto interessante, perché sapete che Brexit è stata molto supportata, appoggiata quantomeno a livello ideologico dall'amministrazione di Trump. Secondo gli analisti poco cambierà effettivamente con l'amministrazione Biden, perché ormai i giochi sono fatti, ma insomma staremo a vedere. 349-238-6666 per i vostri commenti e le vostre domande. Torniamo allora sul tema Brexit, lo facciamo a modo nostro. 90 secondi di copertina, Ternullo e Bernardi. So when will Boris be making his deal or no deal decision? Tonight, stanotte, we are leaving the European Union. Lasceremo l'Unione Europea. For many people, this is an astonishing moment of hope. Per molti, questo rappresenta un momento di grande speranza. I do think that this deal, penso che questo accordo represents a very good deal, sia buono sia per l'Europa, for the UK, sia per il Regno Unito. But of course Michael is absolutely right that certamente sarebbe responsabile per i governi coinvolti prepare for a no deal, prepararsi a un'uscita senza accordo. Let's get Brexit done. Realizziamo la Brexit because we need to build our positive, perché è importante per noi costruire un nuovo rapporto con l'Europa. Come può il governo assicurare ai futuri partner internazionali che il Regno Unito rispetterà gli obblighi legali degli accordi che stipula? Noi speriamo che il Regno Unito, diciamo, esca un po' dalla confusione. Sembrava quasi un nostalgico invito quello di John Berko a chiedere ordine, che fa eco a un messaggio interessante di un ascoltatore. Mauro, scusi, ma perché il Regno Unito non torna in Unione Europea, che è quello che tutti vogliono? Insomma, interessante questa questione, non è esattamente così facile. Buongiorno e ben ritrovata Nessun Luogo Lontano a Fabio Franchino, è professore di scienze politiche, Università degli Studi di Milano. Professor Franchino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche a tutti i radioascoltatori. Professore, lei non se ne avrà male, io mi sono riguardato il suo curriculum e ho scoperto che tra il 2000 e il 2001 lei frequentava la London School of Economics. Sono passati 20 anni, in realtà sembra un'altra era geologica sostanzialmente. Sì, purtroppo, io sono anche molto affezionato alla mia esperienza, là è stata molto bella, molto istruttiva. Il Regno Unito è cambiato molto negli ultimi anni. Anche se già allora c'erano sicuramente questi movimenti che poi sono emersi adesso, sì. C'erano un po' questi la tradizione euroscettica britannica è lunga decenni, però sì, le cose sono cambiate molto. State ascoltando la voce di Fabio Franchino, è professore di scienze politiche all'Università degli Studi di Milano. Ci siamo abbandonati per un attimo a un momento di Amarcord, erano appena 20 anni fa, ma già qualche segnale di questo strisciante euroscetticismo si vedeva, ci sta raccontando il professore. Apriamo un altro capitolo, professore, poi magari torniamo a Brexit. Domani dopodomani giorni di Consiglio europeo, importantissimo, secondo molti è davvero il test dell'Unione europea, davvero la prova del 9, Next Generation EU, le sanzioni alla Turchia, il terrorismo, i veti di Polonia e Ungheria, c'è tanta carne al fuoco. Prima Jacopo Barigazzi ha sintetizzato il tutto col termine complessità e un'Unione europea che fa un po' fatica ad abbracciare la complessità e gestire così tanti dossier, forse perché, ed è la domanda che le faccio, è un'Unione europea troppo a trazione tedesca e francese, non soltanto in campo economico, ma penso anche alla politica estera e alla politica migratoria, come se, insomma, questa Unione europea, quando c'è stato bisogno, non ha mostrato l'identità. Ma l'Unione europea, come prima lo era la Comunità economica europea, è stata sempre, diciamo, la fazione franco-tedesca ha sempre avuto un ruolo molto, molto importante. Con questo non vuol dire che altri paesi, inclusa l'Italia, ha contribuito in modo molto importante al processo di integrazione. Io direi che la complessità è il risultato del fatto che l'Unione europea adesso è molto più importante di quanto lo era 30 anni fa, è il risultato di un processo di integrazione, e quindi se ci sono più dossier perché sono maggiori le competenze dell'Unione europea. Se non le dispiace vorrei approfondire l'aspetto che di questo lei ha elencato una serie di questioni che sono sul tavolo, ma mi permetta di dire che di gran lunga più importante è chiaramente legato alla situazione, al rapporto che c'è con cioè il veto imposto dall'Ungheria e dalla Polonia, certo, in prospettiva dell'adozione del budget e del recovery fund, perché è una questione che va veramente a cuore, al centro dei valori e che fondativi dell'Unione Europea, cioè in pratica l'articolo 1 e l'articolo 2 del trattato, quindi sono questioni molto, molto grandissime e importanti. Stavo dicendo che nel frattempo devo dar conto anche ai nostri ascoltatori del fatto che stanno arrivando indiscrezioni e soprattutto da parte polacca, in omaggio a quello che evidentemente si alza l'asticella, si drammatizzano i toni prima del grande vertice europeo per poi magari ricondurre il tutto a più miti consigli. L'accordo è possibile, questa è un'ansia di poche ore fa, a condizione che saranno soddisfatte le aspettative polacche, l'intenzione del governo è quello di arrivare a un compromesso, questo è il ministro per i rapporti con l'Unione Europea polacco che parla. Secondo alcune indiscrezioni che arrivano proprio da Bruxelles, l'idea sarebbe di vincolare il bilancio e Next Generation EU al rispetto dei valori fondanti e lo Stato di diritto dell'Unione Europea, però sostanzialmente aggiungere una specie di clausola che andrebbe a dire li sottoponiamo a vincolo, però le sanzioni non vi deve essere un intento politico nell'andare a punire quei paesi un pochino più riottosi. Sostanzialmente un colpo al cerchio e un colpo alla botte, non so lei come la legge, professore. Ma guardi, cosa si intende per motivazione politica? Il regolamento di cui si fa riferimento elenca una serie di violazioni del principio di diritto, tra cui anche violazione dell'indipendenza della magistratura e varie altre chiare violazioni dello Stato di diritto. Queste sono considerate motivazioni politiche? Non so, secondo me ci sarà una specie di meccanismo per salvare la faccia probabilmente di chi ha posto il veto, ma il regolamento secondo me è relativamente chiaro, cioè si parla qua, scusi solo per i radioascoltatori, si parla del regolamento che condiziona la distribuzione dei fondi al rispetto dello Stato di diritto, è un regolamento secondo me relativamente chiaro che dà notevoli poteri alla Commissione, perché la procedura con la quale queste sanzioni vengono imposte dà notevoli poteri alla Commissione. Cosa vuol dire interpretazione politica? Adesso non è che è ovvio che la Commissione è un attore importante, è anche un attore politico, ma la lista e i criteri per stabilire queste sanzioni sono molto chiari e molto rigidi. Poi se poi ci sono degli abusi, se in qualche modo non viene rispettata queste le regole, i principi, i criteri del regolamento, la Polonia o chi, diciamo, lo Stato che è oggetto delle misure che verranno prese nel regolamento, in questo regolamento, hanno a loro disposizione vari strumenti per rifarsi alla Corte Europea di Giustizia, eccetera, per annullare queste decisioni. È chiarissimo. Quindi, chiarissimo. Professor Franchino, devo interromperla solo per un istante perché c'è un'altra urgenza. Dobbiamo andare a sentire come stanno andando i mercati in queste ore appena precedenti al Consiglio Europeo e non dimentichiamo anche la cena di Boris Johnson e Ursula von der Leyen. La borsa. Nessun luogo è lontano. Un durissimo test politico è quello che è anche economico, quello che attende il prossimo Consiglio europeo. Domani e dopodomani si decidono e si metterà la parola fine su una serie di bracci di ferro, su una serie di dossier e di vincoli da sciogliere. Con il professor Fabio Franchino, Università degli Studi di Milano, stiamo sottolineando quanto sia importante quello che derivi dal veto di Ungheria e di Polonia. Ma anche gli ascoltatori al 349-238-6666 stanno alimentando il dibattito e, come spesso accade, si dividono tra amanti dell'Europa ed euroscettici, come Beppe da Como, che scrive e mi chiede come mai non mi accorgo che dopo vent'anni non si è fatta l'identità europea, anzi si sono avute fratture come la Brexit. Forse è il caso di pensare che il progetto Unione Europea è fallimentare. Quanti anni ci vogliono per capirla? 30, 40, e chiude con alcuni puntini di sospensione. Professor Franchino, c'è un altro dossier che è particolarmente nevralgico e che metterà alla prova l'Unione Europea, soprattutto in politica estera, quello delle sanzioni alla Turchia. Mi collego in questo senso anche a quello che è successo, l'incontro tra Fatah al-Sisi, il presidente egiziano, e Emmanuel Macron. Ci sono alcuni dossier rispetto ai diritti umani da parte dell'Egitto che vedono l'Europa molto scollata, molto ognun per sé. Ecco, anche sulla Turchia, perché Cipro si è fatta sentire, la Grecia si è fatta sentire, e come sui principali dossier non ci fosse la prova di unità, che forse invece potrebbe andare a sciogliere un po' di problemi seri. Sto pensando al caso Giulio Regeni, per esempio. Beh, allora, nell'ambito della politica estera l'Unione Europea è sempre un attore piuttosto dimezzato. Da una parte il problema della necessità di avere l'unanimità nel prendere decisioni, da una parte, sì. Il fatto che comunque ha delle competenze di politica estera che sono sempre abbastanza limitate, dove gli Stati membri hanno un ruolo ancora più importante. E dall'altro lato il fatto che togliere l'unanimità in queste decisioni di politica estera crea un po' di problemi, perché per certi versi può anche delegittimare, perché è importante che ognuno abbia un pochettino una voce nei processi decisionali, specialmente per quanto concerne le misure esterne. Sì. Diciamo che è molto difficile quadrare il cerchio fra queste diverse domande. Quindi nell'ambito della politica estera diciamo che è sempre un processo molto difficile, tortuoso, dove sono sempre necessari notevoli compromessi. Vorrei fare un piccolo commento sì. al radioascoltatore sul fatto che il processo fallimentare sì. Dell'Unione Europea. Le dico una cosa, dire che l'Unione Europea ha un grande successo in un processo fallimentare vuol dire non ci si ragiona se si analizza il processo di integrazione da questo punto di vista. E posso dire che l'approccio dell'opinione pubblica europea nella gran parte dei paesi e per ormai da decenni è abbastanza positivo. Ci sono criticità, ma non c'è nessuna visione fallimentare, come non c'è nessuno enorme entusiasmo. Sì. È un'organizzazione che aiuta a risolvere alcuni problemi, altri è molto lenta ad affrontarli, e come in tutti i fattori decisioni politiche ci sono processi difficili di compromesso. Certo. E quindi dichiararlo o fallimentare o no, diciamo che mi sembra un pochettino riduttivo. Per quanto riguarda le politiche estere, in questo ambito gli Stati membri tutelano le proprie priorità, le proprie competenze in modo molto aggressivo. Eh sì. Anche se effettivamente sarebbe l'area dove se l'Unione Europea riuscisse a far pesare la sua opinione a livello mondiale sarebbe decisamente efficace, perché ovviamente è un attore molto importante nell'ambito in questo ambito, però le competenze, le gelosie nazionali giocano un ruolo molto importante in questo caso. Si parla tuttavia di risolvere alcuni problemi. Negli anni, per quanto concerne la politica estera, si è creato una specie di diplomazia esterna. Si sta discutendo, c'è una proposta degli ultimi mesi di creare una specie di esercito europeo. Sì, sì, se ne parla da anni, poi in realtà... È una questione molto delicata, mi rendo conto. Però, messa sul tavolo, ovviamente è una questione problematica. Però... sono problemi che si affrontano, alcuni vengono risolti, altri non vengono risolti. Questo non significa che il processo sia fallimentare, può essere deficitario, come che tra parentesi, poi il processo democratico a livello nazionale ha aspetti positivi e aspetti deficitari, non esiste, diciamo, non ci sono delle idealtipi di organizzazione internazionale, cooperazione internazionale, come non ci sono dei grandi idealtipi di come funzionano le democrazie. Non c'è dubbio. Dobbiamo vivere con queste imperfezioni. Non c'è dubbio, e peraltro anche l'impressione che vi sia da parte di alcuni ascoltatori una posizione molto ideologica, ma lo dico senza un giudizio di merito, ideologica nel senso più appropriato, anche più nobile del termine. D'altra parte, per il momento noi italiani non abbiamo la prova contraria, che cosa vuol dire non avere l'appoggio dell'Unione Europea, però magari tra qualche mese lo possiamo chiedere ai britannici e loro vedremo che tipo di risposta ci daranno. Intanto io ringrazio tantissimo il professor Fabio Franchino, Università degli Studi di Milano, insegna scienze politiche. Buona giornata e buon lavoro, professore. Grazie molto, un saluto a tutti i radioascoltatori, grazie. Ma come fa la Francia a pretendere di rispettare i diritti quando avete appena detto che venderà le armi senza chiedere rispetto di tali diritti? Così, in maniera molto acuta, devo dire, un ascoltatore va a sottolineare quelle che sono alcune incongruenze, ma si vedono soprattutto in tema di politica estera, ha ragione il professor Fabio Franchino. Il tema della politica estera europea è minato da una serie di personalismi e di agende strettamente personali, strettamente statuali, evidentemente, che vanno a condizionare pensiamo banalmente al caso libico, dove gli interessi italiani e quelli francesi non sono esattamente coincidenti, anzi sono assolutamente confliggenti. Naturalmente staremo a vedere, sono due giorni importanti, quelli del prossimo Consiglio europeo. Qualcuno dice che se sul Next Generation EU si andrà a una formula intraeuropea 25 sarà un'ennesima sconfitta dell'identità europea stessa. Staremo a vedere. Torno a voi al 349-238-6666. Manfredo da Firenze: l'Italia è fatta, bisogna fare gli italiani, si diceva 150 anni fa, quindi l'ascoltatore che dice dopo 20 anni non si è fatta l'Europa forse vuole tornare all'Italia dei comuni e delle signorie, e un po' i messaggi sono o di questo o dell'opposto tenore. C'è chi, alcuni di voi sottolineano le mancanze, le lacune, le contraddizioni soprattutto in tema di politica estera ed economica dell'Unione Europea, qualcun altro invece che sottolinea, come fa un ascoltatore, dice: ma attenzione che con la pandemia e senza Next Generation EU vorrei vedere come farebbe a cavarsela l'Italia da sola. 349-238-6666, torniamo al vero vulnus che si chiama Orban e non solo, Polonia e Ungheria, lo sapete, si sono messi da traverso. Ma forse arriva un'indiscrezione da Bruxelles, e tra poco il nostro ospite ce le racconterà, per cui forse aveva ragione davvero Jacopo Barigazzi a inizio trasmissione: drammatizzazione, secondo hashtag da segnarsi prima del Consiglio europeo. Andiamo sulle strade. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. L'Unione Europea è come un grande condominio, scrive un ascoltatore, chi ha più millesimi conta di più. E allora mi piace questa metafora, la abbraccio e la porto avanti. E intanto saluto Matteo Tacconi, ben ritrovato, giornalista freelance, esperto di Europa centro-orientale, cofondatore della rivista Centrum Report. Matteo, buongiorno, ben ritrovato. Ben ritrovati. Allora vado avanti con questa interessante metafora del condominio, dove chi ha più millesimi conta di più. Nella riunione condominiale di domani e dopodomani ci sono un paio di proprietari che hanno due più o meno monolocali sostanzialmente, a fronte di appartamenti un pochino più grandi. Peraltro uno di questi monolocali non c'ha nemmeno il riscaldamento centralizzato, c'ha una stufa a carbone sostanzialmente, e vediamo se tra i nostri ascoltatori più attenti avranno capito questa leggera allusione. Scherzi a parte, Matteo Tacconi, mentre si stava preparando la riunione condominiale, intanto però ieri Orban è volato a Varsavia per incontrare Kaczynski. Perché sta succedendo qualcosa in Polonia? Ho dato conto di qualche indiscrezione che vorrebbe un'apertura da parte polacca. Sì, se ne parla da giorni, e il portavoce è stato Jarosław Gowin, che è un viceministro, e ha segnalato che è possibile raggiungere un compromesso, lasciando intendere ovviamente che non è interesse della Polonia arrivare a una rottura. Influisce sicuramente la situazione interna. Il governo polacco, a differenza di quello Orban, si regge su numeri risicati, la maggioranza parlamentare è di 5-6 seggi in questo momento, fronteggia una protesta delle donne che va avanti da più di un mese, e anche ora la fronda dei sindaci delle grandi città, Danzica e Varsavia, soprattutto stanno protestando contro questa postura radicale, contro il veto di queste ultime settimane. Quindi insomma la situazione è abbastanza fluida e anche abbastanza complicata, e forse da parte di Varsavia non c'è l'esigenza di arrivare a una rottura. Poi è difficile capire quello che Orban e Kaczynski si siano detti, anche se quello che è trapelato è che forse c'è un compromesso, e si vedrà che tipo di compromesso è nel momento in cui verrà messo sul tavolo al Consiglio europeo. Chiarissimo, state ascoltando la voce e l'analisi di Matteo Tacconi, fondatore della rivista Centro, un report esperto proprio dell'Europa centro-orientale. Una Polonia che in qualche modo è schiava di una fragilità della politica interna, Orban invece che sostanzialmente è veramente padrone a casa sua, perché il suo partito ha la stragrande maggioranza dei voti, lui ha riplasmato in qualche modo anche il panorama istituzionale ungherese, quindi si permette di fare più la voce grossa. Tra i detrattori, diciamo, della postura ungherese e polacca ci sono quelli che dicono: attenzione, ma voi state remando contro di voi, siete i paesi in Europa che più godono del bilancio europeo e state mettendo il veto, guardate che così non vi beccate i soldi europei. Matteo Tacconi, forse però c'è da fare qualche distinguo, e su questo sei molto attento. Allora sì, su Orban, il caso Zaier dei giorni scorsi, cioè il leader di Fidesz, il partito di Orban all'europarlamentare, colto mentre cercava di fuggire da una finestra durante un festino omosessuale, lui che aveva sempre perorato la causa della famiglia naturale uomo-donna e si vantava di aver riscritto in questo senso la Costituzione ungherese nel 2011, beh, insomma non è un colpo da poco, no? Per la coerenza e per la sembianza muscolare di questo partito. Quindi, come dire, pure Orban potrebbe forse pensare di fare un passo indietro e arrivare a un compromesso fondato su una garanzia, non si sa quale ovviamente, da parte della presidenza tedesca e dell'Unione, che questo meccanismo sullo Stato di diritto non vada a riguardare l'intera sfera dello Stato di diritto, ma solo la parte essenziale legata all'erogazione dei fondi. Potrebbe essere questo, lo scopriremo domani. Una provocazione, se posso. Magari, non lo so, mi veniva in mente mentre tu dicevi e segnalavi proprio questo discorso, cioè se non vi prendete i soldi andate in apnea, e magari queste posture possono anche far riflettere un fastidio da parte di questi paesi nei confronti di questo modo di raccontarli, cioè come i paesi che se non hanno i soldi, se non hanno i trasferimenti di risorse dell'Unione non ce la fanno. Sono paesi che nel bene e nel male, in questo momento soprattutto nel male, stanno ricostruendo, no, la loro identità nazionale, hanno avuto la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, la tragedia del comunismo, rivendicano una sovranità. La ricetta è sbagliata, ma anche questo può far parte del gioco. E questo è un altro aspetto interessante. Matteo Tacconi è abituato a leggere tra le righe e addentrarsi tra i chiaroscuri dell'Europa centrale, politicamente parlando. Evidentemente, ma ha sottolineato anche egli che domani dopodomani è un bel test non soltanto per l'Unione Europea ma anche per questi due paesi. 349-238-6666, qualcuno torna al discorso più generale, il grandangolo che abbiamo messo col precedente ospite, cioè sul modello europeo, qualcuno invoca quello statunitense, l'unico modello, ovvero quello statunitense, al loro interno in materia di diritti, legislazione e tassazione più differenze che nell'Unione Europea, eppure sono oltre 200 anni che sono nati, e da molto ignoranti vengono portati esempio di compattezza anche in politica estera. I compromessi con le varie lobby sono evidenti, così Paolo da Firenze e qualcun altro in maniera più compiaciuta invece porta esempio gli Stati Uniti d'America. Torno però da Matteo Tacconi per un aspetto che sottolineava molto bene Jacopo Barigazzi in apertura di questa trasmissione: l'ultimo summit europeo a trazione tedesca, nel senso che Angela Merkel poi evidentemente deciderà cosa fare della sua carriera politica, e la Germania, come dire, ha dato tanto all'identità dell'Unione Europea negli ultimi mesi. Hai timore che un'assenza tedesca così forte possa rinvigorire quel fronte invece, soprattutto Orban ma anche Kaczynski? Sì, allora da un lato mi conforta che la presidenza di questi mesi sia tedesca e che è l'ultima presidenza Merkel e che quindi Angela Merkel voglia arrivare a un risultato, questo è confortante. Dall'altro è chiaro, cioè da anni Ungheria e Polonia sono una spina nel fianco, al di là della questione di cui si dibatte in questi giorni, cioè di questo meccanismo sullo Stato di diritto, le procedure di infrazione lanciate dalla Commissione Europea per lesione dello Stato di diritto, soprattutto nella parte che riguarda il rapporto tra politica e giustizia, sono cadute nel vuoto. Le sentenze della Corte di Giustizia Europea sul diritto d'asilo infranto in Ungheria, sulla legge anti-ONG in Ungheria, sulle questioni climatiche in Polonia, questi paesi non si sono conformati, è uno stillicidio di no. È chiaro, qualcosa si è rotto e bisogna ricostruirlo. L'Europa è anche lo spazio del dialogo, ci sono alti, ci sono bassi, però è uno spazio fondato sul dialogo. Vediamo se la storia ci darà ragione, ovvero che queste fratture si ricompatteranno. E la storia, staremo a vedere, la storia peraltro si scriverà tra pochissime ore, al 24 circa. Io ringrazio tantissimo Matteo Tacconi, come al solito, lo ricordo, è giornalista freelance, esperto di Europa Centrale, rivista Centrum Report, è quella che lui ha fondato. Matteo, buona giornata e buon lavoro. Ciao. Perentorio Matteo Tacconi nel salutarci, un po' come sta facendo Valeria Bernardi, che sta per schiacciare un tasto. Order, zen, restraint, patience. E così io mi accommiato, vi ringrazio, gentili ascoltatrici e ascoltatori, grazie anche alla squadra di Nessun Luogo. Vi do appuntamento domani, ore 16, intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.